Io sono qui, io sono qui, io sono qui, io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui, di Matteo Caccia. Nostro padre scese dal treno in corsa, approfittando di un rallentamento nelle vicinanze di un ponte. Poi prese la direzione di casa, ma una volta tornato capì che non avrebbe potuto rimanere e si diede di nuovo alla lotta partigiana. Sono Tiziano, vivo a Vanzaghello e sono sposato, ho una figlia che però non abita più con me. Ho diversi hobby, diverse passioni, tra le quali quello che seguo di più è la fotografia naturalistica. Un piccolo strappo alla regola del venerdì, alla regola non detta del venerdì, oggi a Voi Siete Qui. La regola non detta è quella che solo storie allegre, spensierate e divertenti il venerdì pomeriggio, in questo orario che vi avvicina al vostro weekend. Non è, diciamo, una storia pesante, però è una storia sicuramente densa, è una storia di vita densa di cose, quella che vi stiamo per raccontare, che ci ha raccontato Tiziano e che riguarda il suo papà, che parla in parte di guerra, in parte di essere un partigiano e soprattutto di resistenza. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma E Voi Siete Qui. Ogni giorno noi raccontiamo una storia, una piccola o grande storia, una storia che decidete di raccontarci e di inviare a voisietequi@radio24.it. Ha fatto esattamente così Tiziano e ci ha raccontato un pezzo della vita grosso di suo padre che poi si è portato dietro e quindi si è portato con sé. Insieme a questa storia ho scelto di raccontarvene un'altra, che è una storia che non è così lontana, per quanto lontana possa essere la Seconda Guerra Mondiale e la storia della resistenza partigiana in Italia, però sicuramente più vicina, perché è una storia del 2013, è una storia più lontana geograficamente, che arriva dal Centro Africa, ma che ci dice quanto ci siano delle cose terribili che succedono ancora in alcune zone del mondo e quanto resistere, soprattutto in alcune zone, abbia un senso. 349-238-6666, le vostre piccole storie di resistenza, anche al profilo Facebook Radio 24 di Voi Siete Qui, Radio 24. Mario, ho sempre resistito alla sfortuna, proprio da Facebook leggo, che mi ha fatto nascere con una gamba che funziona meno dell'altra, facendo tutti gli sport possibili, dal nuoto alla corsa fino alla bici, e spesso mi mangio pure quelli con entrambe le gambe che funzionano. 349-238-6666, state lì, torniamo più o meno a metà del secolo scorso. Questa è la storia del papà di Tiziano. Nostro padre Mario, leva 1924, era un giovane operaio meccanico e abitava a Roncade, in provincia di Treviso, una zona prevalentemente agricola, vicino alla laguna di Venezia. Prese parte alla lotta partigiana dal suo inizio, impegnandosi in varie azioni nella zona. Venne chiamato alle armi con il primo bando RSI di arruolamento del 4 novembre 1943, che riguardava le classi 1924-1925. Aveva l'obbligo di presentarsi a Vercelli insieme a suo cugino e ad altri due coscritti per effettuare la visita medica. Prima di raggiungere la stessa Vercelli, venne a conoscenza, tramite passaparola, che i ragazzi giunti presso il distretto militare venivano deportati in Germania. Suo cugino Luciano non volle credere a quelle voci, venne deportato e tornò alla propria casa solo dopo la fine della guerra. Nostro padre, invece, scese dal treno in corsa, approfittando di un rallentamento del treno nelle vicinanze di un ponte, probabilmente sul fiume Ticino. Mio padre all'epoca aveva 19 anni, non parlavo volentieri di questo periodo, sono cose che preferiva tenere per sé. Ogni tanto venivano fuori qualcosa, soprattutto quando parlava con certi altri parenti, magari suo fratello, così, no? Quindi c'erano passato quel periodo lì, allora veniva fuori un po' di roba così. Questo episodio qui l'ha raccontato lui, una cosa che era molto molto risaputo, molto conosciuti anche nelle cronache della zona, così, di queste cose. Poi ci sono dei fatti che comunque fanno parte della storia del movimento partigiano comunque. Prese la direzione di casa, ma una volta tornato capì che non avrebbe potuto rimanere a lungo e si diede di nuovo alla lotta partigiana. Agì dapprima nella zona nativa di Roncade con alcune azioni di guerriglia, organizzazione Togliatti. In seguito venne incorporato nella formazione di montagna denominata Brigata Veneziano, divisione Mario Medotti, operante nella zona di Cividale del Friuli. Fu arrestato dalle SS tedesche il 4 gennaio del 1945 a Mason di Bruniera durante un rastrellamento. Vide in quale condizioni uscivano le persone accusate di essere partigiani dopo orribili interrogatori per farli confessare e quindi lui ammise immediatamente di essere pure lui un partigiano, andando così incontro alla condanna che ne derivava. Venne trasferito nelle carceri di Udine in via Spalato e condannato a morte per impiccagione, la quale era prevista per l'8 di febbraio. Quando è stato arrestato, no, dall'SS durante un rastrellamento, si è accorto quando l'hanno portato appunto nella caserma dell'SS che alcuni uscivano in condizioni pietose, era poco, no? Lo sappiamo bene che lì a un certo punto non era lo schiaffetto, no, che andava, no? E di conseguenza lui invece a un certo punto di dire che negare il fatto che era un partigiano non, come si dice, ammise di esserlo, per cui ad un certo punto, a quel punto lì, ammettendo di essere partigiano, sai già che accetta la condanna, no? Viene condannato. Fortunatamente, la sera prima dell'esecuzione, un GAP di partigiani denominato i Diavoli Rossi, capeggiati da Romano il Mancino al secolo Gelindo Citossi, lo liberarono insieme a 72 altri reclusi, tra partigiani e detenuti politici. Questo episodio ebbe un grande risalto, tanto che anche Radio Londra lo citò nei suoi bollettini. Scappò a piedi, correndo tutta la notte insieme ad altri due compagni, inseguito da diversi rastrellamenti e scampato a una raffica di mitraglia, mentre attraversava a nuoto il fiume Tagliamento, vestito solo di pantaloncini corti e una canottiera, sebbene fosse ai primi di febbraio. Si rifugiò in montagna, dove venne interrogato dai partigiani di un altro gruppo che temevano fosse una spia o un infiltrato, visto anche il grave fatto di sangue che proprio qualche ora prima della sua liberazione era accaduto a Portsus, tra Brigate Garibaldine e Osoppo. Solo dopo aver controllato la sua identità venne reintegrato nelle file della Brigata Picelli Tagliamento, ove rimase fino alla fine del conflitto. È molto bella la foto che ci ha mandato Tiziano, di se stesso ovviamente, non del suo babbo. Ha uno sfondo chiarissimo che sembra fatta da un professionista, sembra un Ficus Benjamin alle sue spalle, un po' tipo il capo di Fantozzi che c'ha il Ficus nell'ufficio. Lui è elegantissimo, ha una giacca scura e una camicia bianca. Pronto Tiziano, buongiorno. Salve Matteo. Come stai? Diciamo che sto bene, ho sentito il pezzo, ma non l'ho sentito dall'inizio, a dirti la verità. Non so se era un problema appunto di connessione o... No, semplicemente perché ogni tanto il telefono ha qualche problema. Però ti assicuro che abbiamo letto esattamente il racconto come ce l'hai mandato, quindi parola per parola. A proposito, Tiziano, andiamo proprio lì, raccontaci un po' di più del tuo papà, nel senso che abbiamo sentito che dicevi che lui non ne parlava molto volentieri, e questo è un tratto comune, devo dire, delle varie storie che ci sono arrivate dai nonni o dai genitori delle persone che ci hanno mandato storie riguardanti la guerra. Però che tipo era il tuo babbo? Era una persona allegra? Era una persona che era stata segnata invece da quello che aveva vissuto? No, era una persona fantastica, una persona allegra, molto molto ottimista. Era ottimista, sì. Papà era ottimista, era un personaggio ottimista, poi sempre con la voglia appunto di scherzare e dare la battuta. Che cosa... era proprio battuta. Che cosa aveva fatto poi nella vita? Cosa vuoi? Ha fatto che quando è finita la guerra lui ha cercato di tornare a lavorare, lavorava come tornitore meccanico, okay. No? E non trovando lavoro, quindi è partito per il Belgio. Lì c'è stato un certo periodo in Belgio a lavorare in miniera, nella zona di Liegi. E poi è tornato ed è riuscito a trovare lavoro, quindi è emigrato qui in Lombardia, qui nel Legnanese, sì. E di conseguenza ha passato tutta la vita. E la famiglia, insomma, voi siete di fatto, ormai siete stabiliti lì, nella zona di Legnano, giusto? Sì, noi siamo nati qui. Ma lui quindi ha fatto parte di quella migrazione italiana in Belgio, quella delle miniere di carbone? Beh, certo. Ammazza, ha avuto una vita non da poco il tuo babbo. Tra l'altro, scusami. Ma probabilmente è una cosa abbastanza comune a molti di quella generazione, non è vero? Sì, hai ragione anche tu. Però insomma, farsi sia la guerra come partigiano e poi le miniere, comunque mi sembra sia, diciamo, abbia vissuto un bel pezzo di storia italiana e non solo, devo dire. Il fatto, ad esempio, che lui avesse fatto questa scelta, non c'è giudizio di valore, no? Però essere arruolato nell'esercito sei obbligato a farlo. Entrare nella resistenza, diciamo, c'è una parte di obbligo, però in realtà c'è una parte di grande volontarietà, no? Lui come ha vissuto poi dopo, nel resto della sua vita, il fatto di essere stato un partigiano e di avere lottato per liberare questo paese dal regime? Ma tieni presente che la scelta era quasi obbligata. Okay. Lì non è tanto che venivi arruolato nell'esercito, lì venivi arruolato nella Repubblica Sociale Italiana. Mm-hmm. Venivi arruolato in questo, quindi era già una scelta, questa era una scelta in fondo per molti, in un modo o nell'altro. Certo. No? E quindi di conseguenza è stata una scelta quasi obbligata, venendo quindi da una famiglia appunto antifascista, e quindi è stata una scelta, come dicevo, obbligata questa, o quasi, no? Bene, una volta che ha trascorso questo nella sua vita ha sempre portato avanti comunque questi valori nei quali ha creduto, sempre fino all'ultimo giorno, ha portato avanti sempre nei dialoghi, appunto nelle discussioni, così ha sempre portato avanti. Quindi insomma, diciamo, eravate una famiglia partigiana sostanzialmente, siete cresciuti con questi ideali, giusto? Sì, ma questo si può ben dire, sì, questo è vero. Che cosa fai tu invece, Tiziano, nella vita? Io mi occupo di video, di produzioni video sportive. Ah, ok, quindi... Arrivo dalla fotografia, così c'è stata un'evoluzione, insomma. Ma quindi che tipo di sport fai esattamente? Ma l'equitazione. Ah, segui l'equitazione. Che io cavalli, ecco. Noto che ci sono dei canali dedicati all'equitazione che vanno fortissimo. Immagino quindi sia gran parte roba tua a questo punto, Tiziano, quello che mi capita di vedere. C'è anche roba mia. Okay. C'è anche roba mia. Sì, c'è molto. Purtroppo, che cosa vuoi, questo tipo di attività, questo tipo di sport... Sì. Insomma, pensare che lo sport lo fanno i cavalli, poi rispondo. Beh, sì, però... ma comunque questa è una battuta, no? No, ma questo tipo di attività comunque, sì, in fondo dovrebbe essere maggiormente pubblicizzata, perché è molto bella. E però è un indotto che è notevole. Lo immagino. Effettivamente sembra un po' una cosa per pochi. Noi abbiamo raccontato qualche storia di ippica e di cavalli e avevano tutte un sapore magnifico. Forse bisognerebbe raccontarlo un po' di più. Tiziano, io però ti ringrazio che ti devo lasciare. Grazie mille per la storia e in bocca al lupo per tutto. È stato un piacere, in bocca al lupo a tutti voi e complimenti per la radio e la trasmissione. Grazie mille, grazie. Grazie, ciao Tiziano, ciao ciao. Facendo questa trasmissione, in particolar modo questa trasmissione, ho imparato che tutte le vite sono ovviamente molto diverse e soprattutto che tutte, a guardarle bene, hanno un motivo per essere raccontate e quindi per essere ascoltate. Alcune hanno storie molto intime, storie fatte di dettagli, che so, di sguardi, di piccoli gesti. E certe altre invece sono tutta adrenalina, sono vite che in confronto a un film hollywoodiano è un polpettone prevedibile, dove l'azione, il salvarsi la pelle, la suspense, l'epos, sono giusto la benzina nel motore. Storie che non sfiorano mai la routine, partono a 1000 all'ora e arrivano a 1000 all'ora. Ci sono storie che sono dei soggetti cinematografici, contengono tutto quello che serve per fare un action movie migliore di quello che potrebbe uscire dalla penna di un grande sceneggiatore. Islain Ngwangwende aveva 20 anni all'epoca dei fatti che sto per raccontarvi. Islain era uno studente universitario di Bossangoa, la seconda città della Repubblica Centrafricana, a 300 km dalla capitale Bangui. Nel marzo del 2013, quindi un anno fa, poco più di un anno fa, lui fa parte di un gruppo di studenti che accusa di corruzione il presidente della Repubblica. In mezzo agli oppositori nasce e cresce un comando che è più duro, è chiamato Seleka, che dopo qualche mese riesce a deporre il presidente corrotto. Ma Seleka non segue un'idea politica, sono dei mercenari, sono dei banditi, dei delinquenti comuni che si sono trovati in mezzo e ne hanno approfittato. Uno dei leader degli studenti si autoproclama nuovo presidente della Repubblica Centrafricana e dichiara sciolta la milizia. Ma molti di loro non hanno nessuna intenzione di consegnare le armi e si danno al saccheggio. Islain invece fa parte di quelli che depongono le armi, torna a studiare nella capitale, però è testimone di un fatto che cambierà la sua vita. Un giorno infatti assiste all'assassinio di un giudice molto in vista da parte di alcuni banditi in moto. Gli uomini di Seleka, insomma, fanno giustizia sommaria. Prendono 3 persone sospette, le consegnano ai familiari del giudice che è stato ucciso e offrono loro la facoltà di ucciderle a loro volta. Il giudice però in vita era un sostenitore della presunzione di innocenza e quindi i familiari si rifiutano di uccidere questi 3 sospetti. Come risposta, i miliziani uccidono loro i sospettati e abbandonano i corpi davanti al cancello della casa del giudice. Islain ha seguito tutta la vicenda e l'ha diffusa e raccontata anche nella sua città, a 300 km di distanza. Ma Bossang Goa la situazione è una polveriera. Alle lotte politiche si aggiungono le lotte tra musulmani, la minoranza in ascesa, e i cristiani, la maggioranza. Si è radicata una mentalità del noi contro di loro. I cristiani, per difendersi dalle violenze dei musulmani, hanno formato dei gruppi di vigilantes che a loro volta commettono violenze e atrocità. La diffusione della storia di Islain è benzina sul fuoco, è sufficiente perché i miliziani lo considerino un complottista. Viene rapito, legato, picchiato con i calci dei fucili. Poi viene gettato ancora vivo in un fiume. Siamo nel centro dell'Africa, all'altezza dell'equatore. Da quelle parti nei fiumi vivono ippopotami e coccodrilli. Appena mette la testa fuori dall'acqua, dall'alto gli sparano. Così torna sott'acqua. Islain respira per parecchi minuti grazie a un ramo bucato e nuota pur essendo legato. Dopo molti chilometri di corrente riesce a uscire indenne dal fiume, ma si ritrova nella savana, quindi è possibile preda di leopardi, leoni, rinoceronti, elefanti, tutti gli altri animali selvaggi. Si nasconde nella foresta, dove anche i miliziani non si addentrano per paura delle bestie, e attraverso la foresta supera il confine con il Chad e ottiene lo status di rifugiato politico. Ora vive in Germania, fa il cameriere e gira l'Europa a raccontare il suo viaggio. Islain ha 24 anni e ha vissuto tante di quelle avventure che nemmeno se ne metti insieme 10 di vite bastano. A chi gli chiede se uno come lui, che ha vissuto delle esperienze così forti, non faccia fatica a rientrare nella normalità, risponde che la sua ambizione da ragazzo era diventare maestro di una scuola. La sua non è stata una scelta. È solo che si è trovato in un certo posto, in una certa epoca, e ha semplicemente cercato di cavarsela il più in fretta possibile. E così, grazie alla storia di Tiziano, ho capito che, primo, scendere da un treno in corsa non succede solo nei film. Secondo, se ti salvi la sera prima dell'impiccagione, ne hai da raccontare per tutta una vita. Terzo, ci sono persone a cui ne succedono più che ad altre. Quarto, la natura selvaggia può essere un alleato prezioso. E quinto, i coccodrilli non hanno mica sempre fame. Me voy lejos, ya me despido, me voy de la mentira a encontrar mi verdad. Me voy lejos, ya me despido. Piccole e grandi storie di resistenza, più che piccole direi grandi, quelle che abbiamo raccontato. Spero di aver pronunciato bene tutti i nomi presenti nella storia, quella di Islain. Comunque trovate, devo dire, non trovate molto in italiano se cercate. Se però scrivete il suo nome, che vi ripeto per intero così magari andate a cercarvelo, lui si chiama Islain Nguanguende, scritto più o meno così, però grosso modo forse cercavi da Google, dovrebbe uscire. L'ultimo messaggio che arriva oggi a proposito di piccole storie di resistenza: Giulia, resisto contro quello che ci sta intorno, che mi vuole o solo madre o solo moglie o solo professionista. È un desiderio subdolo e non detto che vorrebbe inquadrarmi in una sola categoria, ma io mi faccio in quattro, resisto e me la godo in tutte e tre. Olè, viva Giulia. Grazie a Gianmarco Ferronato, grazie a Miriam Lucchetti, grazie a Mauro Pescio, grazie soprattutto a Tiziano, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Voi siete qui.